approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Uno dei principali problemi che le imprese di autotrasporto e logistica sono chiamate ad affrontare ora, nel bel mezzo della pandemia, è la mancanza di liquidità. Una situazione che potrebbe compromettere anche la successiva fase di ripresa. Per questo, il governo ha appena adottato un decreto che mette sul piatto 400 miliardi di euro per le imprese italiane, grandi, medie e piccole. Al di là di questa ingente manovra, però, nei giorni scorsi l'ABI, l'associazione che raccoglie le banche italiane, aveva firmato un'intesa, coordinata con Ministero del Lavoro, associazioni datoriali e sindacati, per facilitare l'accesso al credito. Misure che ricadono sul mondo dell'autotrasporto merci, alle prese anche con problemi di vecchia data, come il ritardo dei pagamenti. In questo contesto, quali potranno essere le prospettive per le aziende del settore? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo particolarmente segnato ovviamente da quello che sta succedendo in queste ultime settimane in Italia e nel resto d'Europa e coinvolto ovviamente anche in tutti i provvedimenti normativi che sta adottando il governo in queste ultime settimane per far fronte all'emergenza. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Fabrizio Palenzona, presidente di Conf Trasporto, Conf Commercio. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo con quello che è successo ad inizio settimana, il famoso decreto liquidità, questi 400 miliardi che dovrebbero servire per supportare le piccole e medie imprese, ma anche le imprese più strutturate rispetto appunto all'emergenza attuale. Possono essere un buon toccasana per le imprese di autotrasporto? Se parliamo del volume dei soldi e delle garanzie messe a disposizione, certamente sì. Se parliamo di come verranno erogate, mi pare che l'unica, diciamo così, provvedimento efficace sia quello dei 25, efficace anche nei tempi, sia quello dei 25 mila euro. Quello sicuramente, da come l'ho letto, è una cosa che arriva subito in modo abbastanza tempestivo alle imprese. Il resto mi pare tutta una roba da dopo l'estate. Conf Trasporto, insieme con tutte le altre associazioni di categoria e anche con i sindacati, ha siglato con ABI qualche giorno fa anche un accordo per garantire questa liquidità. In che cosa consiste? L'accordo è molto preliminare, però io confido molto che quando ci saranno le idee chiare con le banche si possano definire, e l'ABI è disponibile, le banche anche, procedure per rendere tempestivi questi aiuti, perché in una crisi come questa, l'hanno detto in molti, il tempo non è una variabile indipendente e dal tempo dipenderà la capacità di stare sul mercato di molte imprese, comprese quelle dell'autotrasporto. La liquidità è un problema essenziale, quindi noi speriamo che con le banche si possa far presto. Certo, al di là del tema della liquidità, tra un po' parleremo anche di tempi di pagamento, che è un altro tema strettamente collegato a questo, ma dicevo, al di là di questo tema, quali sono secondo lei le emergenze che questo settore deve affrontare in questo momento così critico e delicato? Allora, l'emergenza è prima di tutto il riscadenziamento delle scadenze fiscali, di tutte le scadenze fiscali. Dobbiamo avere tempo per pagarle e scadenziate in tempi lunghi, tempi medi almeno, a cominciare direi dall'anno prossimo. Nessuno non vuole pagare, ma oggi non si può aggravare ancora di più la difficoltà che hanno le imprese. Tenga conto che le imprese di trasporto molte sono ferme e hanno quindi tutti i problemi dei costi fissi eccetera eccetera. Naturalmente il provvedimento sulla cassa integrazione è molto utile, anche qui lavoriamo con le banche per renderlo immediato. E poi c'è un problema di costi di chi lavora, costi perché non si ottimizza le cariche, perché è difficile poter avere l'ottimizzazione del carico, per dire in breve l'andata e ritorno, in questi tempi è impossibile, quindi costi aggiuntivi e in più la difficoltà che spesso viene per i pagamenti. Queste sono emergenti, quindi direi riscadenzamento, allungamento, proroga, chiamatela come volete, delle scadenze fiscali tutte, la garanzia di pagamenti 60 giorni, come avviene tra la grande distribuzione, diciamo così, e gli agricoltori. Secondo me è una cosa molto importante. Ecco, a proposito proprio dei tempi di pagamento, c'è stata una forte polemica proprio qualche giorno fa, perché qualcuno ha addirittura mandato lettera alle imprese di autotrasporto posticipandoli fino al gennaio del 2021 i pagamenti. Ovviamente è una situazione insostenibile. Lei parlava di un provvedimento per ridurre questi tempi. In che cosa dovrebbe consistere? Allora, il tema dei pagamenti non è una novità, purtroppo sempre si scarica a terra quando ci sono delle tensioni di liquidità, a parte questa emergenza, si scarica sempre sul più debole, quindi i trasportatori vengono sempre afflitti da questo flagello. Oggi è insopportabile, perché la crisi della liquidità vale per tutti. C'è chi ne fa, diciamo, un elemento un po' furbesco. Io dico, i supermercati lavorano molto, grazie a Dio, meno male, ringraziamo per il lavoro che fanno, ma incassano anche, quindi i pagamenti dovrebbero essere tranquilli. Ma non voglio adesso fare polemica, ognuno deve pensare ai fatti suoi. Noi pensiamo che i trasportatori che lavorano devono essere pagati in 60 giorni, che mi pare una cosa più che ragionevole, tenuto conto poi che oltre i 90 giorni c'è il famoso pass due delle banche, e quindi entri in un loop e poi ti salta l'azienda. Quindi la garanzia dei 60 giorni è importante, e il ministro stesso è pronto a farsene carico con un provvedimento di tutela. Lo ringrazio per questo. Certo, ritorniamo un attimo al tema dell'accordo con ABI. Lei diceva, siamo ancora alle fasi preliminari, c'è bisogno ancora di schiarirsi le idee. Ecco, in che modo si dovrebbero schiarire queste idee per venire incontro alle imprese di autotrasporto, ovviamente? Il tema sono le procedure. Noi vogliamo, stiamo discutendo poi anche con istituti come Banca Intesa, insieme anche all'accordo che ha fatto la Confcommercio per quanto riguarda poi il contributo fondamentale della Confidi, della Confcommercio. Noi stiamo discutendo di procedure, cioè noi abbiamo bisogno, sappiamo che le banche hanno i loro tempi e i loro problemi, noi dobbiamo avere delle convenzioni che consentano ai nostri associati, sui provvedimenti come i 25.000 euro e altri a seconda della dimensione delle imprese, possono avere accesso a questi benefici in tempi molto veloci. Questa è la nostra preoccupazione, questo è il motivo per cui sia con ABI sia con le singole banche vogliamo trovare delle intese per velocizzare queste procedure. Ecco, quali potrebbero essere i tempi per trovare queste intese? Perché come diceva lei, qui la questione del tempo è fondamentale. E i tempi sono veloci, perché noi cosa punteremmo a fare? Punteremmo ad avere delle, laddove sono necessarie, non inventiamoci cose non necessarie, nei 25.000 euro non sono necessarie, laddove sono necessarie delle procedure per cui la banca deve fare il suo lavoro e noi lo rispettiamo, dare tempi ristretti, visto anche la mole che ci sarà di lavori, e avere un approccio più, diciamo, fidelizzato verso il cliente, cioè si devono fidare di più delle autodichiarazioni e che devono rispettare certamente quelli che sono i canoni, per quanto hanno bisogno di Confidi col Confido, e per quanto invece sono, diciamo, le procedure normali per quanto attiene i bilanci e per quanto attiene le verifiche contabili di quello che dichiara l'imprenditore. Questo è il modo per velocizzare le pratiche. Ecco, c'è già qualche apertura dell'ABI su questa semplificazione? Con l'ABI stiamo discutendo, certamente c'è molta sensibilità, non abbiamo ancora concluso, però io sono molto convinto che ce la faremo, perché la stessa sensibilità che abbiamo noi ce l'ha anche il sistema bancario. Prova ne è l'intervista del dottor Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, che dice che metterà a disposizione una task force specifica per queste esigenze. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Fabrizio Palenzona, presidente di Conftrasporto e Confcommercio. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.